Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Hermada, strada privata, di Renato Sarti, con la consulenza di Fabio e Roberto Todero, Lucio Fabi e dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, con Alex Cendrom e Valentino Mannias, regia Renato Sarti, musiche Carlo Boccadoro. Teresina la se innamora de un misero pescador che va alla pesca, torna a casa tutto bagnato. Teresina s'assassinado, Teresina s'assassinado. Monte Ermada, posto sopra gli acquitrini che circondano i cantieri di Monfalcone, l'ho visto giungere, da lontano, con nuvoloni neri in una giornata che era stata di splendido sole, l'ho visto giungere. Pochi giorni prima dello scoppio della prima guerra mondiale, l'ho visto giungere. Un terribile temporale. A Trieste una bufera in attesa si abbatté sulle spiagge dove scherzevolmente si bagnavano le belle signore e si schiantò con violenza inaudita su ombrelloni, inorchiatori, barche. La bora giunse fino a me scuotendo le mie rare frasche, terrorizzando tutti gli animaletti che per la paura cercavano rifugio nelle mie grotte. Durò pochissimo tempo, ma mise in pericolo la vita di molte persone e cagionò gravi danni. Era il preludio di una tempesta più grave, che di lì a poco si sarebbe abbattuta non per pochi mesi, ma anni. Come una regina dal fasto d'oro, l'Europa affonderà in un rosso mare fiammeggiante di sangue e sarà tutto estasi, estasi di morte, extasa, smerte. Io sono il mondo e i giornali non li leggo, ma riesco a cogliere l'eco di alcuni commenti che librano nell'aria e dopo i nuvoloni neri. In mezzo al mare ho visto giungere un'altra scura macchia composta di 5 corazzate, 5 con l'aquila a due teste che arriva a mezz'acqua. All'inizio, più che una guerra, sembravano pareri, ma con me il segretario sarà stato nervoso o la penna difettosa, ma il rifiuto del governo serbo all'ultimatum dell'Austria-Ungheria, il documento più importante per lo scoppio di questa megalitragonia, è zeppo di errori, correzioni fatte a mano, sembra scritto da un ubriacone in osteria. In ultimo asino della prima elementare scrive meglio. Un'operetta, una commedia. Beh, tanto per cominciare, l'arciduca Francesco Ferdinando dove porta per l'anniversario di matrimonio la moglie in attesa del terzo pangolo? A fare una bella gita in Carinzia di fronte a un verde pascolo? No! Lui, maniaco di sfilate militari, va a far visita alle sue amate truppe in Bosnia, lo stesso giorno in cui i serbi ricordano l'ancora bruciante, l'amara sconfitta di mezzo millennio prima dall'odiato turco. È come presentarsi a un funerale vestito da clown invece che a lutto. Sembra un gesto di scherno pesante, un affronto troppo brutto. E difatti, chissà come mai, sono pochi i soldati in giro per Sarajevo quando una bomba a mano viene scagliata contro l'auto di Francesco Ferdinando che beatamente sfila. Ed è l'arciduca stesso che deve rilanciarla sotto la successiva. Io sono un monte e delle umane miserie non ho molta dimestichezza. Ma qualunque altro futuro imperatore, se la sarebbe svignata con grande destrezza. Lui invece no, si reca in municipio, blandamente protesta, aggiunge quell'uomo, l'attentatore, è un folle ed impone di far visita ai feriti dell'attentato in ospedale invece che proseguire al museo come prestabilito. Fa goffamente qualche passo dell'oca, tanto per darsi un tono, e si riparte. Solo che di quel piccolo cambiamento di tragitto, museo, ospedale, ospedale, museo, vengono avvertiti tutti meno Leo, l'autista che guida la Grafenstift verso il museo e verso il baratro tutta l'Europa e il mondo intero. Poi si sa che l'auto di Francesco Ferdinando svoltava a destra all'altezza del Ponte Latino invece che andare dritto. Il governatore che richiama l'autista: Leopold, dobbiamo tornare indietro! Macchinona lussuosa, sì, ma priva di retromarcia. Strada imboccata, stretta, e allora le persone del seguito scendono e come in un quadro di Grozza una barzelletta, i signoroni in frac dove spingono l'auto tutti sudaticci, sudaticci. Verso il penultimo degli attentatori, che era lì per caso, Gavrilo Prinzi. Pen pen, due per tre. Due proiettili sono più che sufficienti per recidere a lui la giugolare, a lei l'artere dello stomaco, la vita di quel bimbo mai nato, e spedire tutti e tre al creatore. E dopo un mese esatto, 28 luglio, patatrà, patatrà generale. Da questi pendii che sorgono dagli acquitrini di Monfalcone. Oh, Monte San Michele! Nemmeno un'aquila avrebbe potuto scorgere nel golfo di Trieste le bare di Francesco Ferdinando e della consorte collocate sulla plancia, ma si vedevano come la Viribus Unitis e le altre quattro corazzate quattro scivolare come lente testuggini sotto la pioggia. Il benvenuto all'attracco sono 19 colpi di cannone a salve, ridicolo prologo del mare di fuoco che si sarebbe scatenato di lì a poco. Di Capuerto per Capuccia anche a tutti i farai delle vie, mai visto lampioni a lutto. La stazione è tutto un crisantemo, un velone nero. Ma se il funerale che do pareti, Mona, te dico mi, del funerale dell'Austria Felix, per vero? Caspa, dei noi si vidi tutto sa pianura del Supriul. Tu, Monte Hermann, mi copri la vista. E io, Monte San Michele, non sarò riuscito a vedere bene le cinque corazzate cinque solcare il mare, ma vedo la splendida pianura del Friuli e questa guerra dalle viscere delle sue trincee. Io, Monte San Michele, in sardo Santo Michele, in sloveno, dalla mia posizione avrei agevolato l'attacco di Gorizia. Questa è la mia disgrazia, è per questo che sulle mie pendici sono giunti giovani di nazionalità e regioni più disparate e lontane, le valorose brigate Abruzzi, Cremona, Regina, anche se di un gruppo solo, che qui ha visto nascere il suo mito un ricordo indelebile, che mai e mai potrà essere scalfito. Io, Monte San Michele, ricordo bene del comando supremo quella circolare. Tutti i fanti sardi siano trasferiti alla brigata Sassari perché conservi la sua caratteristica tipicamente regionale. Ecco, servizio ministeriale, chi ti comanda di questa maniera si richiama la guerra al personale può difendersi italica bandiera. E del resto, cosa meglio di una bella guerra e l'interventismo per ammutolire ogni malcontento, specie quello dei poveracci della Sardegna? L'anno prima la siccità, niente bestiame, distrugge i raccolti, nelle miniere si licenzia catena. Io, Monte San Michele, non lo sapevo che quei fanti giungevano da un'isola flagellata dalla miseria più nera. Com'è che dicevano? Iaus mot cosa te va? Morti di fame, con continui assalti e scontri, con trasugare abbinieri, assabilla del submer, del padrone. Vive per uno stato come prepotenza, secolare e inveterata. Un mostruoso meccanismo ostile, come una truffa. Anche se per alcuni forse la grande guerra era un'occasione di riscatto per rivalersi di un paese che li denigrava per la loro statura o per la loro pronuncia buffa. Quelli lì possono solo badare alle pecore e fare fantini. A bruttare dalle merda, manca un lato di schiena, manca due coglionai, c'era Nessi, Susa, barrazza, poi me li leggo, capisci il continente, non è su senso geografico, no, ma non bello quello che parla di quando vuoi italiano, Portogallo. Una lingua, mica un dialetto, una lingua vera, io Monte San Michele non lo sapevo, ma l'istinto alla sopravvivenza chiede i migliori nervi ai figli di madre natura e all'uomo qualunque. Non rimangono che i cliché da elencare. Signori, date a Cesare quel che è di Cesare, ma a Lombroso quel che è di Lombroso. Sono giunte fino a me, ecco, di quella mente adombrata, ricordo di una cultura non lontana, che oggi sembra anche questa una barzelletta, venuta male, stonata, estranea. Il sarto privo di storia e cultura, vanucchie brigante, appena in grigio verde scaricherà le sue pulsioni di mamutone sorruzzo schifoso, allineamenti aggressivi, mento appuntito, pelle olivastra, occhi tanto vicini quanto insidiosi, fronte spaziosa, zigomi alti, barba ispida e tutta nera, nera. Eri un delinquente? No, dico eri, perché ora fai parte della brigata della tua isola, una brigata vera. I luoghi comuni sono duri da dimenticare. Io che i sardi li ho conosciuti molto bene, io che ho persino imparato la loro lingua, io che del loro sudore, dei loro liquami e delle loro carcasse sono impregnate le mie falde, le mie fosse, come il mio fango e il loro sangue rosse... La valentia non è folklore, la valentia non è folklore, no, la sardità è appartenenza a una stirpe, a una lingua, a una storia, a una cultura senza classi né stato. Il sardo è mito per natura, non fa che trasferire nella vita di trincea la sua esistenza non meno dura, ma non lo spinge la patria, l'onore del soldato, la bandiera, ma i suoi compagni, figli della stessa madre terra, non anelavano al Bogest, ma mettere in pratica le istruzioni militari dei sostudiausi, veterani che in Libia nel 1911 avevano già fatto la guerra sagonica. Prima sagonica, poi su fusilli. Usare prima la testa, poi il fucile. I sostudiausi guidano, non comandano, sacuspinesa. Coltello sacro, veniva usato per chissà quale rito primitivo sacrificale, ma dopo ci vorrò cedo, appena messo del suo volo, e noi si trova a pausa e allergia, che gigante te una bella atmosfera, ma giganta sul roccetto, ui ui, oi di naghe prima. Ho visto i piccoli fanti sardi mettere in fuga i giganti magiari e un solo pensiero. Forse l'ultimo li spingeva e gonfiava i loro petti. Sarte! Sarte! O forza insieme, forza paris, che riassumeva gli amici, i figli, i genitori. Ancora oggi, se prendete una delle pietre bianche del Monte San Michele, e l'accostate all'orecchio, come si fa con i bambini. Ancora oggi sentirete che riecheggia quel aio di Monius, aio di Monius, aio di Monius, aio di Monius. Yeah. a soli 2 chilometri dall'Adriatico Mare. Dio, Monte San Michele, primo ciglione Carlo. In questa guerra ci hanno affidato. E abbiamo sostenuto un ruolo fondamentale. Per il povero Fante, però, la vita di trincea alternava giorni di combattimenti forsennati ad altri di lunghissima inedia. Oh, e l'unico conforto è la lettera che parte o che arriva. Molti erano teste d'asino con la penna, altri invece come queste, di un certo Henrik. Domani andremo in fuoco. A prima vista, come scrive, sembra un analfabeta, un ignorante, ma il grado di scolarizzazione nell'impero è molto alto. Sposato con una fiumana, parla tedesco, ungherese, ovviamente croato, slavo e pure italiano. Fiumano. Domani andremo in fuoco. Iddio me guardi. Curioso. Cara famiglia, cara Veronica, siamo arrivati al posto. La marcia era terribile, di 3 ore pomeriggio sino 12 di notte. Stasera andremo in azione. Ero prima volta in fuoco, 5 giorni senza dormire, senza lavare, mangiare, soltanto di notte. Ieri ho lavato la roba dopo 12 giorni, non me la conoscessi in che stato son con la barba. Vi faccio sapere che sono ancora alla linea. La prima linea. La prima linea. Ieri, giusto con il filo di cassa, mi ho messo a reparare le calzoni in un trincee. Le granate cascavano 8 d'orno da me. Non volevo lasciare il posto, ma in ultimo sono andato via stesso. Pochi minuti dopo è venuta una granata, ma vedere cosa che è venuto fuori dal mio laboratorio Sarte, dove prima cucivo, è incredibile. 4 soldati morti dentro. Così va! Cara Maria, lei che la piange sempre, qui si può il piangere. Si troviamo in una grotta 40 metri sottoterra, infancat. E il fanco resta fin 10 chili sulle scarpe. Pitocchi in quantità, più che si massa più si trova. Questo è il nostro sport. Cara cognata, si troviamo come all'inferno effettivo, già 30 ore senza fermare. Non si può il fuori venire del buco. Non si può fuori venire del buco. Io credo che sono il più disgraziato uomo al mondo, ma pazienza, forse passerà. Questo momento scomincia le granate, bombe, shrapnel, devo terminare di scrivere, ciao! Henrik! Osservavo i soldati, soldati di tutte le nazioni, mi ponevo la domanda più futile, più stupida che ci si possa porre in quelle condizioni, mi chiedevo perché nelle antiche battaglie avevano tutti questi uniformi colorate, gialle, verdi, rosse, sgargianti. Adesso invece di questo triste panno grigio-verde sono vestiti tutti i fanti. Perché prima la polvere da sparo faceva un sacco di fumo e non era facile distinguere il nemico. In quella specie di nebbia fitta tu prendevi bene la mira, sparavi, lo colpivi, ma magari avevi impallinato il tuo amico. Distinguere l'amico dal nemico. Già. Intorno a me vedo Gorizia, Tolmino, a destra Sesana, Orisina con le sue cave qua sotto, con la sua magnifica baia sistiana. Prima di arrivare al mare Adriatico, dalla vasta area della mite d'Europa, si incontrano 2 deliziosi paesini, Malchina e Visogliano, in entrambi le grandi guerre bruciati quasi completamente per la loro posizione strategica tra il mare e l'altipiano. No, anche qui il paese Medeazza è stato completamente distrutto, eppure il mare è più di 30 chilometri lontano. Lì vedo Duino con il castello, la Dama Bianca, e dove Rilke andava a cercare e trovava ispirazione per le sue elegie, proprio da lì di fronte, da Punta Sdobba, gli italiani mi colpivano senza tregua, mortai, obici, cannoni, più di 70 batterie. Fra le migliaia e migliaia di curve che si affrontano in tutta una vita, basta sbagliarne una sola per precipitare in un burrone. Mi hanno detto che con le strade che si ritrova questa norma di vita il sardo conosce molto bene. Nel mio paesaggio era già abbastanza spoglio, un enorme sepolcro di pietra. Ci mancava solo la morte con la falce seduta sul muretto che guarda questi miseri fanti e li ride. dei sardi, una cosa che ricordo molto bene, era susulitto il fischio. Tutte le foglie spine dei miei arbusti si elettrizzavano col segnale. Improvvisamente, come gnomi dal sottobosco, sbucavano assatanati a centinaia. Al secondo fischio, ancora più rapidamente, tutti di colpo svanivano. Come le streghe del Macbeth, avvolti in bolle d'aria. Proprio per il modo improvviso di apparire e sparire, venivano chiamati il battaglione bomba. Ma allo stesso tempo, da quelle stesse trincee erano capaci di uscire di notte, silenti, invisibili, strisciando come pisce nell'ombra. Anche amico lettere, anche a me. L'esercito austriaco è composto di tedeschi, sassoni, ungheresi, ma anche giovani triestini, goriziani, dalmati. E su 4 miliardi in tutto di lettere, alcune dal fronte sono spedite, altre sempre dal fronte, dai propri cari, dai figli, dalle mogli, come questa, sono ricevute. Trieste, 23 dicembre 1915. Caro Pino, voglio scriverti oggi a ciò tu la riceva per le feste. Passi il meglio che puoi. Domenica battezzeranno Rinuccia. Ieri, dopo pranzo, ricevemo le tue foto. Rinuccia diede un bacio alla cartolina del suo papaci. Sarà una mia idea, ma Rinuccia mi sembra già di essere un po' più in carne. Da che capisco? Dalla mia ex latteria. Dovevi vedere cosa erano diventate, nient'altro che una pelle floscia. Se le avessi vedute mi avessi domandato, ma dove le hai messe? Forse per quando veri a casa saranno ritornate allo stato quasi primitivo. Saluti tanti e tanti bacioni dalla tua Emilia, che pensa sempre a te e che ti vuol tanto bene. Ciao mio coccolo Pinucci. Caro papaci, un grande vaso e pizzighetti dalla tua Rina. Buona stella. I due reggimenti della Sassa risbarcarono da Cagliari, Porto Torres, in un tripudio festoso di amici, parenti e bambini sulle spalle, sventolio di fazzoletti, bandiere, gagliardetti. E mentre dalla nave i giovani fanti entusiasti agitavano le proprie barrettine sulle baionette, dal porto i piroscafi rispondevano a sirene spiegate. Ma io sono un monte, e il mondo della notte conosco molto bene, e se qualunque essere vivente sulla terra cancia con il calar delle tenebre, anche sul mare, di notte al largo, quando si fa buio, so che prende il sopravvento la malinconia, e in quel caso un unico pensiero: tornerò. Cantu deser fatta coi pella, chi vi spizzinas de uta pugo notu. Chi andas come te volontario torna da 10 lire, sa. Se fai come volontario un assalto ti danno 10 lire. Ma davvero? Io le mando a casa. Anch'io, Monte San Michele, mi chiedo, la carne di un uomo al chilo vale meno di quella di un maiale? Un anno dopo, all'ingresso dell'Italia in guerra, Cadorna avrebbe voluto arrivare a Vienna per Tarvisio in qualche settimana, gli austriaci sgominare l'esercito italiano in una battaglia campale vecchio stile a Lubiana, ma siccome il Kaiser non poteva perdere Trieste senza colpo ferire, improvvisamente su di me, su di noi, è tutto un brulicare, come migliaia di termiti, militari, prigionieri, montenegrini, russi, serbi, hanno scavato un'opera faraonica di chilometri, di trincee, camminamenti, ricoveri, cave. Nella mia cima c'è una cava di 110 metri, completamente artificiale. È tutto il Carso e il Trentino, non solo io e te che si fa gruviera, per più di 90 chilometri, a partire dalle tue falde, su, fino a quelle del Rombon, sotto Tarvisio, vicino alla frontiera. Gli austriaci deviano l'acqua della diga di Sagrado e, per ritardare l'arrivo delle truppe nemiche, rendono la zona un acquitrino fangoso impercorribile che, quando gli italiani finalmente arrivano e si appostano, io sono già inespugnabile. E molti sono convinti si tratti di una guerra lampo. Saremo a casa prima di Natale. E anche in questo caso, più che una guerra, sembra una posciade. Il primo giorno una pattuglia austriaca viene scoperta a San Floriano in osteria mentre gioca a carte, chiacchiera, si attarda. A Cormons un ufficiale austriaco entra con la spada sguainata dal barbiere e ordina capelli e barba. A Romans un gendarme austriaco viene fatto prigioniero perché rimane a sbaciucchiare l'amorosa. Il 9 giugno anche due battaglioni italiani però si accorgono che si stanno sparando fra loro pum pum pum pum da più di mezz'ora. Poi però la pochade diventa un'immane, inutile tragedia, perché si avanza o si arretra pochi chilometri, centinaia o decine di metri, a volte si muore a frotte per conquistare qualche misera zolla o qualche misera pietra. Le sponde dell'Isonzo hanno alti dirupi che si ergono come formidabili bastioni. Gli austriaci attendono dominanti, è facile sparare dall'alto per mantenere tranquillamente le proprie posizioni. La grande novità però della guerra è lei, la mitragliatrice. La Fiat 14 o la Schwarzlos? Ingombrante, pesante, si surriscaldava da matti, bisognava bagnarla sempre, ci pisciavano a ripetizione, aveva mille difetti eppure era lei, la grande dominatrice, la Schwarzlosa, 400 colpi al minuto, fermava 200 fanti da sola, faceva il lavoro di 100 fucili, insomma... Favolosa. La conformazione del carso, fatta di ciglioni rocciosi, saliscendi repentini, doline, forre, inghiottitoi, offre una varietà infinita di ripari naturali dissimulati, difese congiunte dalle trincee. Le trincee! Quelle di prima linea sono alte circa un metro, con davanti il filo spinato, ancorate al terreno con paletti di ferro, legno, legate ai pini, a 300, 200, 100, a volte anche 40 metri. Ci sono le trincee nemiche, spesso gli austriaci sentono gli italiani giocare a morra, cantare, parlare, viceversa. Qualche volta si fanno dei gesti, si lanciano delle battutacce. Uè, Brustel, vieni qua che ti spagniamo il culo con la senape! Ehi, Macaroni, vuoi che ti presenti la mia fidanzata? Come si chiama, Russa Bagazza? Schwarzlos! La seconda trincea è la più robusta, con ricoveri, riservette, posti di comando e posti di sanità in grotta. Senza strumenti efficaci sotto il fuoco di quelle mitragliatrici e di quei fucilieri scelti è quasi impossibile oltrepassare quel filo spinato che prima veniva usato per delimitare pacificamente i pascoli e gli orti. Nell'avvicinamento alla linea nemica vengono la maggior parte delle stragi, la certezza della morte. Ogni ondata di fanti in quel filo spinato si impiglia, si contorce, si ferisce. L'urlo disumano dell'assalto viene soverchiato soltanto dal crepitare della mitragliatrice. Quasi tutti i reggimenti vengono falcidiati. Per ripararsi la faccia usano una vanghetta con ficaccia a rovescio nel terreno. I medici non vanno tanto per il sottile, se c'è da amputare si amputa, tanto in questo mattatoio, gamba più, braccio meno. Le brigate, messe a durissima prova, dovevano essere avvicendate dopo poche settimane. Sul fronte del Carso dell'Isonzo, dal maggio del 15 al settembre del 1917, i costi umani, morti, feriti, dispersi, ammalati, arriva a 650.000 unità. Per ogni morto piantano un giglio bianco. Nelle mie doline c'erano interi campi. Bianchi. Li ho visti arrivare quelli della brigata Tattarese. Il 21 luglio 1915 entrano a Palmanova, il 24 già a Romanza. Vietato fare rumori o fumare sigarette. Che avessi fumai a Icci, là, se volete fumare così. Altrimenti ci vedono e siamo tutti morti. E fischia qualche pallottolo e cadono i primi feriti. No, che non potevano immaginare a cosa sarebbero andati incontro. La loro zona di competenza, oltre l'Isonzo, a sud-est di Gradisca, erano le mie pendici. I boschi Cappuccio, Lancia, Triangolare, Frasche. Li vedo ancora attraversare le barche del genio che sostituivano i ponti fatti saltare in aria dagli austriaci. La pioggia è battente, tutto ondeggia, scivolano, si aggrappano alle funi, di solito limpide cerule, ora l'acqua sotto scorre scura come il catrame. Un ciclista fa da guida, ma a un certo punto sparisce. Incrociano i superstiti della Brigata Regina, quelli che andavano a sostituire dell'Apocalisse. E maciati, feriti, stanchi. Oh, ma saremo così anche noi, Scida, che siamo già un po' così. Respirano, cercano di tirare il fiato. Più in là quattro carogne di cavalli, un cadavere senza braccia. Willkommen, piccolo soldato sardo, willkommen. Nella battaglia di Gorizia, su 35 chilometri di fronte, ci sono 260 cannoni e 768 bombarde. Un pezzo ogni 35 metri. I cannoni mortai erano prodotti dalla Skoda. Esatto, quella delle macchine. Il cannone spara dritto come un fucile, il mortaio invece a parabole. Quello austriaco da 305 era in grado di provocare crateri di 8 metri di profondità e larghezza, uccidere nel raggio di 400 metri, sparare a più di 12 chilometri di distanza un proiettile che a volte pesava quasi 384 kg. Il cannone poi veniva smontato e portato su da traini studiati in questo caso dalla Porsche. Ruote a batteria funzionano in modo indipendente, adatte per terreni impervi, alla prodigiosa velocità di 7 km all'ora. Ci impiegavano solo 2 ore per smontarlo e 2 per montarlo. Spari! Ma nel momento in cui ti rendi conto che ti hanno individuato e controbattono in solo 2 ore, smonti e fili! L'aria si fa spesso. Fanno 2 passi avanti e 1 indietro. Si chiedono, saranno i lampi e i tuoni del temporale oppure gli scoppi dei mortai che sparano a ripetizione, oppure gli shrapnel. Gli shrapnel sono un'invenzione inglese micidiale. Ogni proiettile contiene circa 300 sfere di piombo e una miccia nell'ogiva regolata nella durata del lancio, che fa esplodere la punta ancora in aria sulle teste dei miseri fanti ignari che non capiscono neanche da dove. Siccome il piombo non è un materiale rigido, le sfere entrano nel corpo con un foro piccolo ed escono causando un grande buco. Se poi colpiscono dopo aver rimbalzato sulla roccia, assumono la forma di schegge taglienti, il danno è ancora peggiore. Essendo le 4 del mattino del 25 luglio, le compagnie del 152esimo della Sassari sono schierate sulla linea di fuoco nemica, trincerate dietro un cumulo di cadaveri. Con il sole cocente di giorno e la pioggia di notte, la decomposizione dei corpi sparsi dappertutto diventa ancora più. Mosche con enormi pance verdastre luccicano al sole, dietro i muretti di pietra simili a quelli della loro Sardegna. I soldati si interrogano sbigottiti, non dormono da 2 giorni e sono praticamente a digiuno. Alle 9 il colonnello informa che alle 11:30, dopo un tiro di sbarramento delle artiglierie, il 152esimo della brigata Sassari andrà all'assalto sul bosco triangolare, ed è così che avviene. Alle 11 gli scoppi delle granate sono puntuali, scuotono il terreno, il sistema nervoso. Volte da una casa pazza. Scemi! Scemi di guerra! Esattamente da lì che viene il termine. Vedo tanti fanti con dei fazzoletti bianchi intorno al viso. Oh, e da denti, d'amore denti. Ma quale mal di denti? Gli hanno sfondato i timpani e i fazzoletti, le garze sono per i versamenti. Dallo spazio fra l'ammasso di cadaveri, i soldati valutano la situazione insieme al comandante, su Studiao. Dalla sua fermezza in questo momento dipende la sorte di ogni soldato. In 2 secondi l'intero battaglione balza dalla trincea e tutti, ufficiali in testa, si gettano sulle posizioni nemiche, urlano per darsi coraggio, mai a sproposito, è solo quando è necessario. L'utilità di quelle estenuanti ore di lezione, di tattica militare, solo ora. Davanti al nemico viene fuori, depisici sempre, noi esesidui e noi edottus a squadra. Tenere sempre ben presente la posizione del singolo comilitone e dell'intera squadra. Una volta tu salvi qualcuno, l'altra quel qualcuno salva te. Altro che primitività ferina alla Salgari. Portano alle truppe delle botti piene di grappa sarda. Il vero, altro che Bescherovka, da distribuire al gavettino di chi andava all'assalto, altrimenti. Dopo 4 giorni di aspri combattimenti, boschi Cappuccio, Lancia, Triangolare, Frasche sono nelle mani della SAS. Uno sterminio. Di notte si sta con i piedi nell'acqua, dopo il pasto salta anche il sonno, ma devono restare svegli, perché in un attimo corpo a corpo terrificanti la lotta tra il piccolo fante sardo e il gigante maggiore sembra impari, e invece la stanchezza del giorno prima d'incanto è sparita. Passano dalla baionetta subito a sagguspinesa, la lucidità e la disperazione, non la sete di sangue, fanno mirare direttamente a Subuto. 15 anni fa hanno trovato un deposito di 100 e passa proiettili di artiglieria. In una mia dolina. Era lì da 80 anni, ma ancora potenzialmente pericoloso. Se scoppiava un incendio sarebbe stato un disastro ambientale. Ma qui oggi è una zona altamente protetta. Neanche i cani oggi pisciano più liberi. E gli asparagi, quelli selvatici, si possono raccogliere moderatamente e soltanto con la licenza. Uova e pancetta sono comunque la morte loro. Trieste, 24 dicembre 1916. Un anno e un giorno dopo. Caro Pino, oggi ho recuperato asparagi e continuo a prendere uova e latte. Questa mattina sono andata in piazza e comperai pomi. Piacciono tanto a Rinuccia. Dovresti sentirla come mi domanda, mamma pomo, mamma pomo. Pomi, peccato che qui non si trovano. 8 chili per corone, 2 belli, brutti e mezzi guasti a 80 centesimi. La Rinuccia assaggia di tutto. Che appetito che ha. Quando le diciamo, guarda che verrà il papà a portarla via, dice solo papà via, papà via. Ogni giorno dice qualche parola nuova. Ieri qua da noi che tiri, non dagli aerei ma dalle navi. Si sentiva il boron, boron. Mattina e sera si vedono la gente che trasloca, chi col materasso, chi col cuscino. I bambini, poverini, non capiscono cosa succede, sono quasi contenti di questo movimento. Pino mio, non mi sembra che domani sia Natale. Una volta alla vigilia si vedeva la gente così contenta, tutta faccendata a far ricompere. Anche ora le piazze sono piene di gente, ma di povere donne che sono ore e ore in fila, al freddo, al gelo, per comprare patate e pomi. Di salute sto ben. Così pure il nostro angioletto. Domanda sempre, papà come sta? L'eterno duello. L'eterno duello sui miei piani. Continua e dura da 10 battaglie, 10, quasi 2 anni. Dalle alture sento i cannoni ininterrottamente, i sibili, i mugoli lontani sopra le conche, le strade. Vedo le luci rosse che accendono le mie creste, i morti ridotti a gonfi mostri, a scheletri biancheggianti, a accumuli di uniformi a brandelli. Dalle trincee si spruzza della nafta e si dà fuoco. Portano 2 damigiane piccole di creolina. Ma come fai a disinfettare un'area di chilometri? Per di più una delle due viene centrata da un colpo di artiglieria. Lo sanno che il nemico contrattaccherà, infatti è nel momento del pericolo che l'uomo rivela quanto vale. In muica si pidi canto palli si palettes. Nessuno si lamenta, gli ordini vengono impartiti sotto voce. L'assalto e l'inseguimento diventano cose naturali, ma non si riesce a spiegare. Io vedo in basso delle aree ridotte a un cimitero e non possono nemmeno svolgere il compito di becchini perché sparano a chiunque si muove. Nel buio scorgo un fante sardo che vorrebbe dare sepoltura all'amico. Ma come fare? Sa che il cecchino è lì, pronto. Allora, come un caporetto, come un serpentello, striscia lentamente fuori dalla buca, si avvicina piano piano al corpo rigido dell'altro che gli fa da scudo. Con una vanghetta comincia a scavare una fossata all'obiettivo, alta circa 0.5 metri. Il sistema funziona finché il cecchino mangia la foglia, guarda bene nel mirino e che fa? Sornione aspetta, cosa? Che il fante sardo, dopo aver fatto scivolare il compagno nella fossa, rimanga scoperto e prima che possa tornare nella trincea gli spara. A quel punto la bara diventa per due. Quel che si dice! Wemann so sagt, si sa in eigene Schrappschaußen. Scavarsi la fossa da soli. Tanto poi qua arriva un colpo di mortaio e butta tutto all'aria. Quando quella fossa raccoglie più giovanotti, sulla croce posano quello che chiamano il rosario del fante, una collana di bossoli, di bottigliette, di scatolette di carne, con dentro i biglietti con i loro nomi. Volano i razzi. Cosa vorranno significare? 1 rosso e 3 verdi. Di colpo un urlo spaventoso, gli austriaci iniziano a cavare in testa, attaccano in modo forsennato, il raganellante, i mitraglie, gli scoppi dell'artiglieria pressante, i fischi delle pallottole, le urla strazianti dei feriti, la guerra arriverà tutto il suo ghigno, i piccoli sardi, abituati alle loro lande, alle loro montagne vergini, per un attimo si chiedono, abitato al silenzio della mia isola, ci fa questa tortura, sto casino? Ma poi si ributtano nella mischia. A un certo punto in italiano si sente forte e chiaro: cessate il fuoco! Perché sparate sui vostri fratelli? Sono italiano! Un comandante ci casca dall'ordine di fermarsi, ma altri ufficiali della compagnia odorano l'indegno inganno. Sei veramente italiano? Sì! Allora parla sardo! Scheiße! E danno l'ordine di riprendere! Notte e giorno le granate attraversano la baia e scoppiano sui miei costoni, sgretolando, mandando in mille schegge letali la mia bella roccia bianca. Questo infinito agone solo la determinazione fa gara con la crudezza. In questa carneficina restano fermi per qualche giorno, mangiano fra i morti, dormono fra i morti e fra i morti, unico appiglio alla vita fuori le lettere. Che spediscono ai propri cari. Prego mandarmi una mutande, vasetto vaselina, filo e aghi, un pezzo sapon indifettante, una fiaschetta di Anna, non occorre più, ma buon rum, acqua vita oppur cognac. Beh, chi voleva soldi mandar, ma ho scritto che manda altro, soltanto i pacchetti che sia. Bomboni, limone e non queste mentine che era tutto sfregolato. Non mandare che coccolata. Cioccolata. Coccolata e cioccolata. Ma buon impaccato perché i prende fuora. Nel pacchetto mutande mancava. Cara Veronica, gombra salami di quelli come che avevo l'ultimo mangiato ai due del mese. Freddo patiso. Più che buon sarebbe quella iacchetta color caffè che ego a casa. Son san, ancora appetito e buon mangeria, ma da casa ricevo soltanto caramei e coccolata. Quella roba non sta più a mandar. Salame te pregavo, salame, ma non si vede niente, ho pur perso. Qui pacchetti è un affar serio. Non si riceve, ma magari rubano un povero militare. Per questo è meglio niente mandare. Iddio dessi che presto passi tutto. Che ogni padre può trovare la sua famiglia e a casa può mangeria. Ma quanto verrà quel giorno? Henry. Alle 2:30 del torbido pomeriggio del 17 agosto 1917. Ha inizio l'undicesima battaglia dell'Isonzo. Le viscere del Carso sono un labirinto di roccia e acqua, ma sopra pochi lo sanno, è arso d'estate, è arido. I soldati li guardano, poveretti, boccheggiano, fumano, attendono l'ordine dell'assalto in assoluto silenzio. Arriva un po' di brodo, di caffè e di cognac. C'è una breve pausa per rifocillarsi, anche se dopo 3 giorni la trincea è di nuovo invasa dall'acqua e sprofonda anche 10, 15, 20 centimetri nel fango. Statue immobili di fango rosse. Qualcuno ha persino la forza di scherzare. Ci cresceranno i funghi e i licheni fra i coglioni. Qualche austriaco grida: italiani farebbe di lui, oh! Ore, per ammazzare il tempo si scrive, si discute. Un laureato in filosofia discetta del Sacro Romano Impero, degli Azzechi, del Dalai Lama e pure dei bonzi in Cina. Moltissimi sono colti dalla febbre e viene distribuito tutto il chinino in dotazione. Da lontano, una volta, io Monte Armada, sembravo la morbida mammella modellata di un'antica matrona languidamente coricata. Oggi sono tutto uno squarcio, tutto uno sbreco. In mezzo a tutto questo una granata fa cadere un albero, lo abbatte su una tenda e da sotto esce un soldato che si accende il fucile come fosse un cane, ride. E poi attacchi su attacchi noi custodi. Questo è quello che volevo quando saltavo con il piroscafo da Cagliari, salutavo col mio berretto, tutta Cagliari col mio berretto, sulla punta del fucile, col mio... Ma dove siamo capitati? Dove siamo finiti? a un tiro di mortaio dall'ermada. Di notte Mardona si mangia come un teccato su topi, grossi come gattini, si aggirano, frenetici come solerti spazzini attratti da tutto questo ben di Dio. Poi gli dai la caccia per la fame, anche se grassi scappano, maledetti, non li becchi. E lasciano i loro escrementi in giro, in pochissimi giorni si diffonde il colera. Li riconosci dalla tinta cadaverica, quasi nera, ma per il soldato sardo ammalato, ferito, il ricovero sarebbe un'umiliazione. Crepa piuttosto che mollare. Anche perché il battesimo di fuoco l'ha fortificato nello spirito e si sente invulnerabile. D'improvviso, l'aria muta. Che succede? Esplosioni ad un tintinnio strano. Gli austriaci balzano in piedi e dalle trincee come dei posti di osservazione percuotono barattoli vuoti di conserva, di carne, di marmellata, i bossoli degli shrapnel. Quando si sente questo tintinnio significa... Gas! Gas! Il soldato austriaco mette la maschera, la parte anteriore ondeggia, si sgonfia, si rigonfia di nuovo per l'ansimare, è scomoda, la testa suda, il sudore cola, ha paura di soffocare, fa per togliersela, ma si ferma. Il cervello dice al cuore fermo. Vuoi morire, non vedi gli altri che hanno già la bava gialla, qualcuno se la strappa, vomita e se la rimette di nuovo, polvere e imprinte. Da soli mischiati, qua vicini, in un giorno solo il gas ne uccide circa 6.000. Poi lasciano perdere con l'uso dei gas, anche perché da queste parti si sa mai, il vento gira. Ma io, Monte San Michele, mi chiedo, esiste una maschera grande anche per me? E questi miasmi, per quanto mi resteranno ancora addosso? Settimane, mesi? Un anno? O sono ancora qui presenti oggi? Di nuovo notte. Dura da 24 ore ininterrottamente il bombardamento. Tutto sotto di me è stato... trasformato, demolito, sconvolto. I cavalli di Frisia volano come fuscelli. Io fumo, scoppio, divampo come un vulcano, quasi l'Etna. Io era mio. Da agosto la Sassari resiste ai contrattacchi. Frantumi di armi, corpi volavano per aria come petardi, vampate di fuoco, fumo accecante, rombo assordante, sibili, scosse del terreno, esplosione. Io, San Michele, non sembro un monticello di neanche 300 metri, ma il Vesuvio in piena eruzione! Nel tascapane di un italiano trovano una fotografia. Il ragazzo è ritratto in mezzo a una famiglia numerosa. La foto passa di mano in mano, poi viene riposta diligentemente. Due uomini afferrano con cura il corpo e lo gettano al di là del filo spinato. E cosa possiamo fare? Non c'è spazio per i vivi, figuriamoci per i morti. Io mi sento come un cavallo crollato a terra, colpito da troppe dosi di vergate di cuoio. Ma volete capirla che più di così è inutile insistere? Io sono un monte, sono il Monte Armada, io non muoio! Nell'altro versante, l'infante fa un percorso ritroso, si precipita da una trincea, mostra una crosta grigiastra sul petto, farfuglia malamente qualche parola in ungherese, si ributta nella bolgia. Soltanto... dalle parole degli altri magiari capisco che si trattava della materia cerebrale di un amico ucciso. Vedo la brigata Sassari, come si muove. Io mi fate la compagnia. Gli arditi, tre. Le mie cime, le mie creste, gli austriaci fanno a pezzi a centinaia i loro stessi uomini. Usano lanciafiamme. Gli italiani vengono respinti in un corpo a corpo di zappe, vanghe, coltelli, baionette, bombe a mano, con centinaia di tagliole sparse in ogni dove. Poi la battaglia si sposta verso nord, poi verso Gorizia. Io non so dove voltarmi, tutto si muove. Meglio un battaglione decimato che un reggimento distrutto. Meglio un battaglione decimato che un reggimento distrutto. Sarsi decimare per lasciare altri reparti a riparo in attesa dell'assalto definitivo. Questa la tattica dell'esercito Crucco. Meno di un mese per conquistare poche decine di chilometri. La Sassari perde 13 ufficiali, 334 fanti, fra feriti e dispersi 2303. Due terzi degli effettivi, Nel fango di una trincea, una vedetta molto giovane. È sporco, coperto di sudore. Il bianco degli occhi è arrossato dalla polvere e dagli spari. Le narici tremano come le froge di un cavallo. Una lacrima riga di quanto in quanto le sue guance scarne. Ad ogni granata ha una contrazione della bocca. Meglio di ogni altro libro discorso, meglio di un ritratto di Goya, tutto l'orrore della guerra è dipinto in quel volto. Che modo strano che adoperano per sapere chi è morto. Un contabile fa il nome, se nessuno risponde scrive. Morto in combattimento il 26 luglio 1915. Solo che lo scomparso magari ricompare. Allora il contabile corregge. Il 26 luglio 1915 è resuscitato. È Torrau des Inferno, no? Anche i trinceristi più avvezzi, ormai allo stremo, non reggeranno un altro corpo a corpo. Vengono accolti da un tremendo fuoco di sbarramento pesante, una mitragliatrice, una seconda, una terza. Diversi mortai che sono posizionati qui dietro sparano senza sosta in modo incessante. Tuttavia l'avanzata italiana continua imperterrita inutilmente. Si sente l'odore della carne bruciata e il lanciafiamme che riprende. Gli austriaci riescono a respingere l'attacco italiano, ma evidentemente la notizia è già corsa attraverso i fili del telefono che come arterie o vene passano sotto la mia roccia, perché pochi minuti dopo riprende più violento di prima il bombardamento dell'artiglieria italiana da Punta Sdoba. Per i fanti passare il filo spinato delle trincee è quasi impossibile. La massa e il coraggio non bastano e le ondate di uomini si impigliano in questa enorme tela di ragno. Materassi di cadaveri per oltrepassare. Ecco un buon sistema. Il cielo pluvio, il freddo gela le ossa, lamenti acuti, lamenti strazianti, lamenti fiocchi dei feriti, dei moribondi, degli assiderati lasciati là, che tremano senza più coscienza, senza poter essere soccorsi, sembrano storpi, con gli occhi neri, sbarrati, in paurosi atteggiamenti ed elemosinano la vita. Li sento parlare fra loro. Siamo destinati a salire i gradini della gloria. Se proprio posso scegliere, io preferirei quelli di casa mia. Scherzi con la morte, se non qui, dove io onorerò la patria, se ritorno a casa vivo. L'artiglieria non riesce a svellere i reticolati. Allora si piazzano i tubi e la gelatina. Attento! Che salti in aria! Quanti sardi per fortuna sono minatori, hanno a che fare con la polvere da sparo, tengono il sigaro al contrario in bocca acceso per la luce. Quanti soldati italiani falciati dalla mitragliatrice o centrati dai cecchini austriaci sul filo spinato con in mano la maledetta pinza che Cadorna si vantava tanto di aver rifornito con generosa abbondanza. Statua del Canova, aggraziata, una gamba dritta, l'altra leggermente ripiegata, un braccio corre disteso lungo il fianco, l'altro sopra la testa, indietro nobilmente reclinata, con il palmo della mano leggermente aperto verso l'alto, come se non avesse fatto in tempo a puntare il dito verso il cielo per maledirlo! Santo, Sabotino, il Podgora, San Gabriele, manto di sangue sfinito, non reggo più tutto questo peso. Attacchi, contrattacchi continui. Di notte un riflettore enorme illumina per chilometri e accende. San Michele, e questo lo ricordo molto bene, ho sentito i fanti sardi poetare come fanno loro per tradizione antica, l'improvvisa, e allora lì, proprio lì, a poche decine di metri da dove quando il fatto è accaduto, e non appuntando medaglie alla memoria o apponendo corone d'alloro mesi o anni dopo, lì, In loco si decantano le gesta dell'amico, del compaesano sfortunato e valoroso ucciso. È un trasporto a cui tutti si uniformano, immedesimano e commuovono. E attraverso le parole dei poeti che si alternano a turno, sorgono dal più profondo dell'animo una complicità, una vicinanza, un sentimento unanime diffuso, un rito che si configura come giuramento collettivo che potrà materializzarsi soltanto nell'assalto successivo. La megali tragedia dell'undicesima battaglia dell'Isonzo è dunque finita. Un indescrivibile quadro di desolazione si presenta alle mie pendici, piene di corpi sepolti in putrefazione, piene di feriti dall'aspetto cadaverico, fosse comuni scavate con la dinamite cosparse di acido cloridrico. Pochi vecchi combattenti si aggirano, persi tra le macerie, e cercano invano di riconoscere le vecchie postazioni, ma non ci riescono, perché quello che per secoli, anzi millenni, la pioggia più impetuosa, la bora più tremenda, non sono riuscite, lasciando praticamente immutata la conformazione dei miei pendii, delle mie discese, migliaia di granate come enormi ruspe hanno sconvolto nell'arco di qualche mese. E quei superstiti si guardano e si chiedono: ricordo una dolina. Qui non c'era uno spuntone. Ma dove diavolo siamo finiti? A metà novembre la Sassa rilasciava in mano della brigata Cremona la posizione delle frasche e dei razzi, dove torna a metà dicembre, e poi un anno sull'altipiano a consolidare il mito, anche se io sono stanco di fare il macellaio e di portare gli uomini al massacro senza scopo. Affermerà Lusso, e no. Non sono italiani, veneti o sardi che uccidono austriaci, bosniaci, ungheresi, slavi, ma contadini e operai che si scannano fra loro. Pro defender Sabatria, italiana distrutta, s'este sa Sardigna intera. E Heinrich? Caro Lev, figlio mio, ho ricevuto la notizia che ti vai in scuola commerciale. Dunque guarda cosa che ti fa. Spese saranno abbastanza, dunque gioco da parte e studiar. Mi raccomando, studiar, che non perde il tempo per niente. Studia e adendo. Fa paura vedere il tuo scritto. Cosa quello uno scritto da uno studente della prima commerciale? L'ultimo asino della prima elementare scrive meglio. Lettera che ho subito buttato via. Vedo già che non sarà niente con lui. Con un simile scritto vuole entrare in un ufficio. Ma per lui la scuola è più un ricovero che altro. Lavorerà giorno e notte. Potevo mandarte lavorare. Era meglio. Veder lui me butta remengo. Meglio che Dio me prende. Meglio che Dio me prende. Papà Heinrich. Già. Povero Heinrich. Documento ufficiale, bollettino perdite, si comunica che Weikand Heinrich, nato nel 1874, eccetera, eccetera, a seguito di ferita alla testa, è morto il 24/10/1915. Al crepuscolo. Al crepuscolo scorgo un gruppo di muli giù nelle doline, carichi di cadaveri. Ogni mulo porta sul vasto due corpi, le cui braccia ad ogni incespicaro scivolar di zoccolo oscillano qua e là come se con le mani volessero salutare mestamente me. Gli altri morti, chi vivo resta? Sul Monte Santo le granate hanno abbassato di 16 metri la cima che ora si staglia come memento mori della mutilazione. Il Monte San Gabriele, manto di sangue, è un secondo carnaio. L'altipiano della Bainsizia, caduto nelle mani degli italiani, pure a sud sono tu. 100 volte assaltato, 100 volte difeso, solo tu, Monte Armata. Maledetto, indomabile bestia, fortezza gigantesca, cardine dell'Isonzo, solo tu da Stone of Trieste, la porta di Trieste, Vrata, Od, Torsta, solo tu il vorace inghiottitoio di giovani, solo tu, Monte Armada, dalle migliaia di italiani morti, non sei mai stato conquistato! Da qui, da dove la leggenda vuole che abbia visto passare gli Argonauti, da dove potevo vedere i magnifici velieri che attraccavano, che per giorni e giorni rimanevano ancorati, da qui, dove potevo vedere la migliore aristocrazia europea che soggiornava nei lussuosi alberghi di Sistiana, da qui, dove potevo sentire cori e bande rallegrare l'aria nelle giornate di festa da mane a sera, e la vedevo, la gioventù, Dio le frasche a far l'amore. Che bel che gli era. Da qui, tutto d'un colpo. Bubum. Nella penultima battaglia dell'Isonzo, dalle 6 di mattina alle 4 di sera, le bocche di 1250 cannoni e 600 mortai, un pezzo ogni 10 metri, mi sputarono un milione di proiettili. Un'apocalisse che sembrava non fermarsi mai. E Pino, il papà di Rinuccia, Sigai Falù, 7 novembre 1918. Cara Emilia, mio tesoro, ora abbiamo l'armistizio, siamo prossimi alla pace. Domattina partirò per Budapest e dopodomani mattina sarò di ritorno a Trieste. Sei contenta, Picia? Baci lunghi a te e a Rinuccia, dal tuo Pino. A volte, durante la guerra, dopo l'ennesima giornata di tremendi assalti e massacri, tutti e due, io, San Michele, e lui, Monte Armata, facevamo lo stesso identico sogno. Un sogno che, come nel Macbeth, più che la foresta, interi costoni, interi versanti delle nostre due montagne. E quelli delle montagne intorno, ovviamente. Si staccavano e avanzavano da soli. E a quella vista tutti, dal primo dei generali all'ultimo dei barellieri, spauriti all'istante, mollavano tutto. Mollavano i mitri. Mollavano fucili. Mollavano le mazze ferrate. Mollavano sacuspinesi. Mollavano i cannoni. Mollavano bombarde tenari. Mollavano dalla prima all'ultima tutte le postazioni. E se la davano a capo. E per incanto, come per incanto, cessava tutto questo inferno. Cessava tutto questo incubo. Oggi soltanto qualche sentiero ben segnato permette di raggiungere la cima del Monte Armada, altrimenti la vegetazione bassa, i carpini, le roverelle, le acace ne vietano l'accesso. Non si passa, ci si graffia. Oggi un'apparente calma placida regna. Oh, delirio se ammendo, in umbra smido e sa, te so manzano. Qualcuno sostiene che sia stato il calo della bora degli anni 70. Ma io sono certo che a concimare questo manto verde che da qualche decennio copre le cicatrici, le piaghe del Monte Ermada, siano le migliaia di giovani anime che albergano dimora fissa in quella terra rossa e che sotto forma di foglia, fiore, arbusto, filo d'erba, vermiciattolo, libellula, piccolo ragno, reclamano ancora oggi quello che sarebbe stato un loro sacrosanto diritto. A quell'età, vivere e non morire. Si dua in su mondo de amore camare tanto è. Lo spettacolo Ermada, strada privata, di Renato Sarti, con la consulenza di Fabio e Roberto Todero, Lucio Fabi e dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, con Alex Cendrom e Valentino Mannias. Regia Renato Sarti, musiche Carlo Boccadoro. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Tomasz Kirenczuk, direttore artistico della 55esima edizione del Sant'Arcangelo Festival, Not Yet, il titolo di quest'anno, dal 4 al 13 luglio 2025. Ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Spieghiamo cos'è questo festival. È una domanda, sempre domande aperte, sono queste più difficili perché il festival è molto ricco in programma, siamo molto contenti quindi di tutti gli artisti e artiste che abbiamo il piacere di ospitare quest'anno. L'hai menzionato, il claim dell'edizione Not Yet, che chiaramente, come anche negli anni precedenti, parte da un'osservazione che seguono artisti invitati al festival, che raccontano un mondo in attesa di cambiamento, il mondo in cui non tutto è stato ancora deciso. Allora c'è anche spazio per un intervento nostro, per un'azione. Allora in questa natia c'è anche una chiamata all'azione, che chiaramente è fatta all'interno e tramite le pratiche performative. Allora il programma, come anche negli anni precedenti, è composto da molti lavori delle artiste italiane, ma anche il programma internazionale è molto importante, molto ampio, e noi lavoriamo praticamente in tutta la Sant'Arcangelo, anche nelle città come Longiano e Rimini. La cosa di cui siamo molto molto felici è quella che quest'anno il festival rinforza ancora la sua presenza nei spazi pubblici, soprattutto sulla piazza Ganganelli, dove presentiamo tre bellissimi lavori di Xenia Kogilaki, Slamming, come ricerca sul rave, sul clubbing, poi il lavoro di Tinan Williams insieme con Nikisi, che parte dalla ricerca sui rituali africani, e poi chiudiamo il programma sulla piazza Ganganelli con la Chachi, una artista strepitosa spagnola che fa la ricerca sul flamenco, ma visto reinterpretato dal punto di vista femminista. Poi tra le proposte su cui mi fa piacere anche di puntare, sicuramente questa di Diana Anselmo. Diana Anselmo è un artista sordo italiano che farà la prima italiana del suo nuovissimo lavoro A Moi, in cui riflette sulla cultura sorda italiana, anche le modalità in cui questa cultura è stata marginalizzata o non è stata riconosciuta in Italia. E poi anche mi fa piacere di menzionare Clara Curi, con cui poi chiudiamo il festival il 13 luglio al Teatro Galli di Rimini. Clara fa una ricerca continua sull'estetica queer e anche sul mondo di clubbing. Com'è stata la scelta artistica? sempre molto difficile, perché chiaramente ci sono molti artisti e artiste che noi seguiamo o che ci interessano, le proposte artistiche di valore, di qualità, anche di una urgenza sociale e politica sono molti, allora è sempre molto difficile fare la decisione finale. La cosa che mi rende molto felice è quella che praticamente quest'anno siamo riusciti a realizzare proprio tutto il programma che l'abbiamo sognato, pensato verso la fine dell'anno precedente, perché questo è il momento in cui si chiude il programma. E devo dire che Sant'Arcangelo era, lo è e credo che sarà sempre un festival che non presenta soltanto i lavori artistici, ma segue anche certe ricerche che hanno molto da fare con la situazione politica e sociale, e sicuramente per noi questo è molto importante, di presentare le pratiche artistiche che non sono soltanto interessanti dal punto di vista estetico, drammaturgico, per quanto riguarda i linguaggi che usano, ma anche proprio per questa urgenza sociale e politica che le porta avanti, perché crediamo che anche questo è il ruolo di un festival come quello di Sant'Arcangelo, di creare uno spazio di dialogo, di scambio, uno spazio in cui le diverse prospettive sul mondo si possono sentire, vedere e confrontare. Allora questo sicuramente era una direzione con cui stavamo andando facendo il programma del festival. Come sarà strutturato rispetto alle giornate, rispetto ai luoghi? Il festival ogni giorno offre una proposta artistica molto ampia. Noi lavoriamo quest'anno credo su una diecina, dodicina dei spazi diversi, tra cui ci sono spazi teatrali come quello di Lavatoio, di Teatro Galli a Rimini, di Teatro Petrella a Longiano, ma lavoriamo anche moltissimo con i spazi non teatrali o spazi che si usano raramente per il teatro, come per esempio un vecchio warehouse che sta nel centro di città, ex Corderia, uno spazio bellissimo che non è stato usato da festival da tanti anni, è uno spazio in proprietà privata con cui abbiamo trovato un accordo, una collaborazione per poter ospitare quest'anno i lavori di Alina Arci, Wojciech Grudziński, De Widel e Eva Giardowska. Poi torniamo anche quest'anno a uno spazio fondamentale, emblematico per Sant'Arcangelo, cioè ex cimentificio Buzzi Unicem, che è uno spazio ormai da 10 anni chiuso, che comunque ha fatto una storia importante per la comunità sant'arcangiolese. Lì presentiamo quest'anno il lavoro di Giorgio Maria Cornelio, Ogni creatura un popolo, che tra l'altro Giorgio Maria è un artista sostenuto da fondo un progetto di sostegno per la creatività emergente che l'abbiamo fondato a Sant'Arcangelo 3 anni fa e su cui lavoriamo con 15 partner italiani da tutto il paese. Poi non da dimenticare anche il nostro spazio per il cosiddetto festival di notte, su una piazza notturna, in Parco Baden-Powell, in cui allestiamo il tendone del circo che ospita In Bosco, il nostro spazio per le party, per DJ sets. E quest'anno la programmazione di questo è stata fatta in una collaborazione con 3 collettivi, Industria Indipendente, un collettivo romano, Parigi Secondo, un collettivo romagnolo, e Chem, un collettivo qui e varsaviano. Poi da dire anche che quest'anno tornano i concerti live, che per la questione soprattutto economica negli anni precedenti non eravamo in grado di fare. Quest'anno con curatela di Chris Bronson riportiamo i concerti sulla piazza, ci saranno 5 sere con i concerti gratuiti sulla piazza Ganganelli. Allora praticamente ogni giorno dalla mattina presto fino alla notte tardi c'è sempre qualcosa da fare, da vedere, da sperimentare. A Sant'Arcangelo, tra spettacoli, concerti, DJ sets, workshop, discussioni, incontri. I riferimenti internet per il programma? Il nostro sito www.santarcangelo festival, i nostri social su Facebook, su Instagram. E poi i biglietti si possono comprare online, ma si possono comprare anche qui sulla piazza nel nostro botteghino. 55esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal titolo Not Yet, dal 4 al 13 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tomasz Kirenczuk. Grazie mille, ci vediamo a Sant'Arcangelo, alla prossima. Con Tiziano Panici di Dominio Pubblico per presentare India Città Aperta a Roma al Teatro India dall'8 luglio al 3 agosto 2025. Ben trovato.

si è affermato, i cosmonauti borghesi che hanno aperto quest'anno il 1° maggio insieme agli Origami Smile, che è proprio il gruppo appunto dove suonava Francesco Valdiserri, a cui è dedicato tutto questo progetto musicale di palco di mezz'estate. E poi ancora troveremo qui sopra Il Pinto, Emilio Stella, CO2 Baby, Kino, quindi nomi assolutamente giusti per passare una bella serata sotto le stelle. Poi nell'arena invece, che solitamente aprirà alle ore 21, massimo 21:30, i main event con alcuni concerti di pregio. Segnalo a Cruda Voz, concerto di Lavinia Mancusi, folk singer e vocalist che suonerà con una band fantastica, e a Cruda Voz è proprio il suo ultimo disco che viene presentato dopo una serie di sperimentazioni di successi musicali, e fra l'altro sarà aperto da uno spettacolo di Anonima Teatri di Alexandros Memetà e Ioris Petrillo, Isabel, tratto da una storia vera. Sempre appunto nella parte dell'arena che è a pagamento, lo spettacolo Brutta, storia di un corpo come tanti, della scrittrice Giulia Blasi, interpretato da Cristiana Vaccaro. Lorenzo Magragoni e Niccolò Fettaraffa, Solo quando lavoro sono felice. Ovviamente stiamo parlando in questo caso di eventi a pagamento, ma che sono sempre bloccati allo stesso costo di 10 euro. L'acquisto e le prenotazioni attraverso il sito del Teatro di Roma, quindi teatrodiroma.net. Sui nostri social, quelli di dominio pubblico, quelli di Fondazione Teatro di Roma, ci sono tutti i link e le indicazioni per potersi prenotare e registrare. In ogni caso, India sarà sempre aperta, sarà una città aperta per l'appunto, dalle ore 18 fino alle ore 00. C'è anche un programma di attività diurne tra mostre, laboratori e talk che trovate sempre sul sito, a partire da un atelier per i più piccoli, per i bambini, organizzato sempre da Zip, che abiteranno gli spazi del Teatro India per fare un laboratorio di teatro, circo e animazione. India città aperta, a Roma al Teatro India dall'8 luglio al 3 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Tiziano Panici di Dominio Pubblico. Alla prossima! Grazie a te, un bacione! Con Alessandra Muschella, direttrice artistica del Roma Borgata Festival, dal 18 maggio al 21 settembre 2025, ben trovata. Grazie Federico, buongiorno a tutti. Ce lo presenti? Il Roma Borgata Festival nasce nominalmente quest'anno, in realtà è un'esperienza che va avanti da un decennio sotto il cappello di una rassegna più ampia che è la città ideale. Quest'anno abbiamo deciso proprio di concentrarci sulle borgate e le periferie romane che riteniamo siano i territori più vivi della città di Roma. In un momento in cui il centro storico viene spopolato dai residenti e lasciato in mano al turismo e ai grandi eventi, ci volevamo concentrare per offrire una programmazione varia e multidisciplinare in quelli che sono appunto le borgate romane. Come si sta articolando? Abbiamo deciso proprio di renderlo una rassegna diffusa. Abbiamo una programmazione che prevede diversi format ed eventi che spaziano dalla danza, alla musica, al circo, al teatro e ai laboratori. E abbiamo deciso proprio di strutturarlo in modo diffuso, in modo da offrire ad ogni borgata la propria programmazione, che vede il ripetersi di determinati format che portiamo in luoghi non convenzionali come i bar, le edicole, le piazze, i cortili ater, i mercati rionali. Abbiamo format come Bar Campioni, che ci raccontano le storie dei grandi sportivi o le storie di riscatto personale attraverso lo sport. Andiamo in scena proprio nei bar di quartiere all'ora dell'aperitivo, tra i tavoli appunto di un bar. Oppure format come Edicole, che con lo spettacolo Ce l'ho, ce l'ho, mi manca, ci raccontano la storia di questa istituzione che sono le edicole, che in questo periodo sono in forte crisi, quindi ne vogliamo raccontare la storia. E poi abbiamo anche le format musicali come Operai all'opera, in cui una compagnia di addetti ai lavori dal retropalco di un teatro dell'opera ci racconta in maniera ironica quelle che sono i grandi titoli dell'opera lirica italiana. Quest'anno portiamo in scena Rigoletto. Poi tanto circo contemporaneo, musica, un omaggio a John Williams, in cui all'ora del tramonto un violoncellista al pianoforte ci riportano a sognare con le grandi colonne sonore delle musiche dei film. Insomma, per tutte le età e per tutti gli interessi. Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti? Sono poco meno di un centinaio, sono tanti. Questa settimana siamo dal 2 al 6 nei quartieri di Montespaccato, Torre Vecchia e Primavalle, e poi avremo una coda di programmazione a settembre a Tormarancia. Com'è stata la scelta artistica? Una scelta che va avanti in continuo con quelle che sono state le nostre esperienze in questi territori negli ultimi anni. Abbiamo sperimentato diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo, diversi format, e abbiamo deciso di replicarne, di rendere proprio dei contenitori tipo Bar Campioni, Operai all'Opera, che ogni anno proponessero dei titoli diversi, perché abbiamo visto che sono quelli che i cittadini, i residenti dei quartieri che abitiamo aspettano con più interesse. E poi anche la scelta di portare dei linguaggi nuovi come la danza. Abbiamo per esempio sperimentato quest'anno un laboratorio di lunga tenitura a Villa De Santis tenuto dalla compagnia Codance, in cui per un mese diverse persone si sono incontrate in un laboratorio di movimento che poi le ha portate in una restituzione finale. Oppure con il progetto sempre di danza Pillole Urbane, in cui appunto la compagnia Codance ha tenuto questa residenza a Corviale per una settimana, cui ha costruito questa performance legata a quella che è proprio l'architettura del quartiere. Quindi proponiamo anche dei linguaggi nuovi che si formano proprio nei quartieri in cui poi andiamo a restituirli. I riferimenti web per tutto il programma? Tutto Roma Borgata Festival, tutti i social e il sito su Instagram, Facebook, TikTok e il sito web, ci sono tutti i riferimenti e i link di prenotazione. Gli spettacoli sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria per tenere sempre informati per qualsiasi variazione gli iscritti all'evento. Roma Borgata Festival dal 18 maggio al 21 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Muschella. Alla prossima! Grazie, grazie. Con la gioia di Casetta Rossa per presentare la 22esima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa SPA, spazio pubblico autogestito, dal 29 giugno al 13 luglio 2025. Ben trovata! Ciao Federico, ben trovate! Spieghiamo cos'è questa festa. La Festa dell'Altra Estate è una festa che si svolge a Garbatella da ormai più di 20 anni ed è un appuntamento fisso ed importante per il quartiere. Si svolge di solito nella prima decade di luglio, quest'anno ci siamo allargati, cominciamo dal 29 giugno. Come si caratterizza quest'anno? Visto la situazione che ci circonda, il tema che ha un po' legato il tutto è resistere a questa invasione, quindi fondamentalmente la resistenza, direi. Iniziamo alla grande, infatti, con lo Yalla Festival il 29 giugno, un festival tutto dedicato alla Palestina, con cucina ovviamente palestinese, musica e dibattiti, durerà dal primo pomeriggio alla sera tardi. Dopodiché avremo il giorno dopo degli incontri con i portuali della provincia del film Portuali, poi ci sarà Lercio Live, lo spettacolo di Lercio, e uno spettacolo teatrale che si chiama Bambole Rotte, poi l'immancabile ovviamente tributo a De André il sabato 5 luglio, dal titolo Siete comunque coinvolti, direi significativo e che si spiega da solo, e così avanti fino al 13 luglio. Ci sarà anche la stand-up comedy di C'è Figa, poi un concerto con tutti i gruppi del quartiere Garbatella e chiudiamo con il Baobab Ensemble il 13 sera. Loro fanno musica di tutto il Mediterraneo. Questo per quanto riguarda le serate. Poi nei pomeriggi ci sono vari laboratori per bambini, dibattiti, c'è anche un concerto di Alberto De Benedetti, ci sarà un incontro sulle zone rosse che vedrà coinvolta Eddie Marcuzzi con delle letture e Silvi Genovese con la sua splendida musica farà testi di Giovanna Marini. Insomma, seguiteci sulle pagine social. Com'è stata la scelta degli appuntamenti? Quello che ci guida è naturalmente l'attinenza al tema e ai nostri valori fondanti. E poi cerchiamo di alternare momenti più ludici, tipo il cabaret astrologico della stronza o appunto stand-up comedy, a momenti invece un po' più impegnati, quindi dove ci sono dibattiti e incontri sul momento che stiamo vivendo. Come si svolgeranno le giornate nel complesso? Le giornate cominceranno dalle 17.30 con i laboratori per i bambini. Dalle 18.30 ci saranno appunto i dibattiti, le presentazioni, l'incontro, diciamo l'attività pomeridiana, e alle 21.30 c'è un evento principale in area eventi. Tutto questo accompagnato da il bar che rallegra sempre il parco e ci disseta, e due turni di cucina. Facciamo due turni, uno alle 8 e uno alle 9, per poter ovviamente soddisfare più gente possibile, perché magari chi vuol vedere l'evento delle 21.30 viene alle 8 e poi dopo può tranquillamente andare a vedere l'evento, chi magari invece è interessato più a vedere altre cose nel pomeriggio arriva con più comodo e cena alle 21. L'ingresso è libero chiaramente? L'ingresso è rigorosamente libero, naturalmente tranne per la cena e per il bar, ma tutti gli eventi sono assolutamente a titolo gratuito. Ci tengo a sottolineare, gli artisti verranno remunerati. La festa è l'unico momento dell'anno in cui riusciamo a fare quello che è giusto fare, ovvero remunerare gli artisti. Purtroppo nel resto degli anni non ci viene difficile farlo, ma fortunatamente alla festa ci riusciamo. Ma per il pubblico è tutto rigorosamente a titolo gratuito e non serve prenotazione, tranne a qualche laboratorio dei bambini. Oltre a Casetta, quali altre strutture collaborano alla festa? Beh, sicuramente appunto lo IAL è organizzato dalla comunità dello IAL, ci hanno aiutato nell'allestimento Roma Moore, ci sono dei punti di contatto con l'Approdo, ci sono ovviamente delle collaborazioni territoriali, ma il grosso dell'impegno è di Casetta Rossa. I riferimenti web per i dettagli? I riferimenti web li trovate in parte sul sito che è casettarossa.org e in maniera più dettagliata sulla pagina Instagram Casetta Rossa e sulla pagina Facebook sempre di Casetta Rossa. Sulla pagina Facebook trovate sia eventi che post che specificano i vari momenti. 22esima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, dal 29 giugno al 13 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Gioia. Alla prossima! Grazie a voi veramente per lo spazio. Con Caterina di Teatro Forte per presentare lo spettacolo La Tempesta, Rischio Forte da William Shakespeare, a Roma, al Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, mercoledì 9 luglio 2025. Ben trovata! Ciao, ciao, grazie per questo spazio. Ci parli di questo lavoro? Questo lavoro viene appunto da un laboratorio di teatro che compie quest'anno 10 anni, diretto da Luigi Morra, laboratorio che si chiama Rischio Forte. Da un punto di vista laboratoriale, proprio il nome del laboratorio porta appunto il rischio che ci prendiamo anche ad esempio nella scelta dei testi. Quest'anno insomma abbiamo voluto provare a cimentarci con qualcosa di grande per noi, quindi prendere in mano Shakespeare con l'attitudine che abbiamo sempre avuto negli ultimi anni, quella appunto di prenderci il rischio performativo di anche appunto stravolgere il testo. Il testo abbiamo voluto in qualche modo riportarlo alla contemporaneità e per la prima volta abbiamo cercato di concentrarci sul lavoro, sul personaggio, e quindi La Tempesta si spezzetta in questi personaggi che incarnano un po' varie tempeste. È come appunto se ogni personaggio fosse reduce da una tempesta in un teatro e si ritrovasse insieme ad altri piccoli pezzi di tempesta all'interno di questo medesimo teatro, per ritrovarci poi come attori in scena attraverso degli espedienti performativi che restituiscono poi il collettivo. Quanti attori e attrici in scena? Siamo 13 e questo diciamo è stato un ulteriore rischio da prenderci, perché quest'anno si sono uniti al laboratorio 6 persone che non avevano mai avuto a che fare anche con il teatro, quindi insomma il laboratorio si prende un po' la briga di integrare attori che non sono professionisti e che non necessariamente prendono questo spazio come una scuola, ma appunto come un laboratorio che riporti un po' alla collettività questo lavoro performativo. Rispetto al testo, su quali elementi vi siete voluti focalizzare? Come dicevo, ogni personaggio indaga una tempesta, quindi sono vari livelli che vengono un po' sviscerati. Personalmente penso che alcuni aspetti di questo testo emergono in modo più chiaro, e soprattutto la questione del potere. quindi proprio un'analisi sul potere, il potere che va da Prospero, il protagonista che architetta questa tempesta, ai giochi di potere, i sotterfugi per usurpare il trono, fino all'aspetto poi più coloniale del potere, quindi il personaggio di Calibano, che nella letteratura insomma ha sempre rappresentato un po' anche a posteriori il simbolo dell'indigeno, e credo che soprattutto questo aspetto emerga più chiaramente. Però, come dicevo, si è voluto giocare su più livelli narrativi. Come avete pensato la messa in scena? È un po' quello che vorremmo lasciare allo spettatore e quindi al momento della fruizione dello spettacolo. Non vogliamo appunto dare troppi dettagli, però diciamo che la messa in scena riguarda sia da un punto di vista dei costumi, vuole appunto rappresentare la presenza di questi personaggi reduci da vari teatri, da vari spettacoli, come se un Prospero e un Calibano entrino dentro il Teatro Forte partendo da un altro spettacolo, quindi i costumi giocano su questo aspetto, mentre la scenografia è parte integrante dell'atto performativo che ci unirà poi collettivamente, riunisce i personaggi e c'entra anche un pochino con la storia del teatro, perché c'entra anche con un atto performativo che riguarda anche la gestione del potere, anche in senso di quanto è complicato gestire un teatro autogestito. Ci dai riferimenti web per i dettagli? Sul sito del CSO Forte Prenestino. Comunque ci vediamo alle 8:30. Lo spettacolo La Tempesta, Rischio Forte da William Shakespeare a Roma, Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, mercoledì 9 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Caterina di Teatro Forte. Alla prossima! Grazie mille, alla prossima! Con Loris Seghizzi, co-direttore artistico della 27esima edizione del Collinaria Festival, la scena contemporanea, a Casciana Terme Lari dall'11 luglio al 2 agosto 2025. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Federico. Spieghiamo cos'è questo festival. Beh, il festival sempre di più è il momento dell'anno dove si vanno a concretizzare tutta una serie di progetti che ci vedono attivi nell'inverno e dove si lavora sul territorio, si lavora con le persone, attraverso i laboratori, si sperimenta l'infrastruttura di connessioni per arrivare pronti poi alla messa in scena ubiqua dell'opera che chiude lo spettacolo. Il festival è un momento di festa vera e propria, condiviso con gli abitanti di questo splendido luogo e con gli artisti vecchi e nuovi che vengono a portare il proprio mestiere. E sottolineo questa parola perché è di questo che si parla in un momento molto molto delicato per il nostro settore. Quanti sono gli eventi di questa edizione? Parliamo di 32 spettacoli, si stanno aggiungendo delle conferenze spettacolo su un'idea che mi è venuta all'ultimo momento, alla quale non voglio rinunciare, che sono incontri con gli artisti, ma anche con persone che in qualche modo vanno a toccare il nostro settore, il settore teatrale, musicale, artistico in generale. Abbiamo una decina tra anteprime, prime nazionali e poi ci sono tutti i giorni questo momento a cui tengo moltissimo, che è quello del tramonto, quindi al Calasole sul castello, dove ogni artista che viene riadatta un proprio lavoro, ne ha creato uno ad hoc per quella location, dove ha a disposizione proprio giusto il tempo in cui il sole scompare all'orizzonte. Com'è stata la scelta artistica? Sono partito dalla fine, da Tosca de Sé, che è lo spettacolo, l'opera ubiqua che chiude, come ormai da qualche anno a questa parte, il festival, perché nella sua retorica, quindi una storia di amore, di potere, di religione e con le varie sfumature che riguardano quello che poi è la nostra quotidianità, quello che ci interessa anche senza che ce ne accorgiamo ogni giorno, che apparentemente è retorica, che fra l'altro è un concetto che a me piace molto, purché non si cada nell'accezione della banalità. E quindi è di questo che si parla. Gli artisti, il programma è molto concentrato su questo. Ogni artista porta a modo suo il lavoro sulle emozioni, perché poi parliamo di questo. Quindi sono questi i grandi temi che attraversano il programma. Come si articolerà durante questo quasi mese di attività? Dall'11 al 17 c'è la prima parte che è dedicata al multidisciplinare, usiamo questo termine, che va necessariamente utilizzato, dove iniziamo subito con una coproduzione che abbiamo fatto con Il Grito, dove Mirko Miccacci, che è il direttore della sezione del suono, ha curato i suoni, un progetto che è nato anche da tre step di residenza qui all'Ari, da parte del Circo El Grito, con un'altra prima nazionale, questa è una prima nazionale, un'altra prima nazionale di uno spettacolo Mauro, che è di Eros Carpita, fino al 17, dicevo, la programmazione si sviluppa attraverso spettacoli e performance, poi il 18, 19 e 20 c'è la sezione dedicata al suono, dove partecipano come sempre scienziati da tutto il mondo, dove la sera ci sono concerti e spettacoli sul tema, e dove quest'anno c'è anche una summer school, quindi una sorta di masterclass che vede interessati molti studenti che arrivano da ogni dove. Basta andare sul programma, anche perché è veramente lunghissima da descrivere questa sezione. Poi si riprende la parte multidisciplinare, la parte dedicata al territorio, arrivando fino al 26 di luglio con vari eventi anche ospiti internazionali. Dopodiché il festival si sospende per qualche giorno per la preparazione dell'evento finale, che è Tosca del Sé, che appunto è l'opera ubiqua che si realizza grazie all'infrastruttura Connessioni e che va in scena l'1 e il 2 di agosto, interessando varie location del borgo, in particolare due per la messa in scena, dove in una si muove l'orchestra, i cantanti lirici, c'è una parte dedicata alla danza e al contemporaneo, nell'altra si sviluppa invece la trasposizione teatrale con gli attori e con una band rock che va a implementare la drammaturgia sia di Puccini che quella parallela che è stata appositamente scritta per raccontare questa storia. Il 22 luglio il festival si sposta dall'Ari e va in un'altra bellissima location, alla Fornace della Rotta, che è una frazione di Pontedera, dove c'è il Museo dei Mattonai, una splendida cornice, dove andrà in scena il duo Balbi, che li ritaglierà un originalissimo spettacolo portato apposta per Collinaria. I riferimenti web per tutti i dettagli? Collinaria.it e poi tutti i social. Su Live Ticket si possono acquistare i biglietti. 27esima edizione di Collinaria Festival, la scena contemporanea a Casciana Terme Lari dall'11 luglio al 2 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Loris Seghizzi. Alla prossima! Grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie. Con Fabrizio C., autore del libro Il cerchio e la saetta, storie dai centri sociali romani. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Ci presenti questo lavoro, cos'è? Come c'è scritto anche nella prefazione, fatto da un professore e una professoressa, entrambi storici, Alice Soggia e Bruno Bonomo, non è un libro di storia, ma un libro di storie. Col fatto che quest'anno a luglio, proprio l'11 luglio, saranno i 30 anni dallo sgombero violento della Torre, quello alla cui difesa parteciparono molte delle realtà romane dell'epoca, si parte da quella data, da quel momento, per tornare indietro agli anni 80, quando realmente poi cominciano a nascere i primi CSOA. Che erano un po' un'evoluzione di quello che erano stati i circoli del proletariato giovanile negli anni 70, come raccontano i compagni e le compagne dell'epoca, una ricerca di spazi e luoghi che andassero a superare anche le sedi politiche, ad esempio, perché quelle stesse sedi politiche stavano soffrendo e non riuscivano più a svolgere quel ruolo che per anni avevano svolto. E quindi si affaccia una nuova generazione di compagni e compagne negli anni 80, appunto, che cercano, inventano nuovi modi per aggregare e per fare soprattutto politica. Che periodo hai coperto? Essenzialmente dalla metà anni 80 alla metà anni 90 non si parla soltanto di CSOA, ma tutto anche di quello che è successo in quegli anni, no? Se pensiamo che nell'83 c'è la manifestazione a Voghera, che è il primo appuntamento di piazza importante degli anni 80, dopo la lunga ondata repressiva c'è il movimento studentesco dell'85, c'è ovviamente la Pantera con lo sgombero del Leoncavallo nei fine anni 80, e anche il racconto di quelli che sono stati i cicli che hanno portato poi ad occupare gli spazi, uno pre-90 e uno post-90. Spesso e volentieri si è raccontato come i centri sociali siano nati dalla Pantera, quando invece questo è leggermente diverso, come è leggermente diverso appunto la gestazione che c'è dietro gli spazi romani, e tutti hanno una storia a sé. È una storia spesso e volentieri legata soprattutto al territorio dove nascono questi spazi, ma una storia comunque di tutte e tutti soprattutto. E mi andava che si riuscisse a tornare di nuovo a fare una narrazione che parlasse del collettivo, visto che siamo ormai sommersi dall'autonarrazione, dal racconto di sé e mai dal racconto del noi. Quanti sono stati i tuoi interlocutori e interlocutrici e come ti sei mosso per la scelta? La scelta è andata molto a conoscenze e dove non conoscevo, tramite ovviamente al giro dei compagni e delle compagne, in tutto saranno una trentina abbondanti, e quindi dagli ex occupanti del Sisto Quinto, a chi occupò il Breakout, a chi occupa appunto l'Aurentino 38 e via dicendo, perché poi appunto Roma è una città fatta di tanti quartieri anche diversi, e quella diversità poi si è anche riflessa poi sul portato che c'è dietro gli spazi che sono nati in quegli anni. Il punto più alto probabilmente è stato quello che ha visto il coordinamento dei centri sociali e delle associazioni di base. Quello è uno dei punti. Il coordinamento dei centri sociali nasce appunto nei primi anni 90 anche per uscire da quella che era l'emergenzialità, e viene da pensare che dopo 30 anni dallo sgombro della torre gli spazi che sono sopravvissuti in questi anni stanno ancora in quella emergenzialità, tra l'altro si è cambiato molto molto poco, però sì, fu uno dei tentativi che c'era all'epoca di portare avanti una difesa comune. Poi, come ha raccontato dai compagni e dalle compagne nel libro, la delibera poi prenderà delle strade che non convinceranno tutti e tutte, tanto che alcune realtà rimarranno fuori o usciranno e altre porteranno avanti il percorso della delibera 26. Qual è il bilancio che viene fuori? Il bilancio di una diversità, una vivacità non indifferente, ma soprattutto, come poi raccontano alcuni, c'era una voglia più di ogni altra cosa proprio di sperimentare, di trovare delle forme nuove, ed oggettivo che proprio l'occupazione dello spazio stesso e la pratica dell'autogestione ci sono diventati dei collanti per più di una generazione. Le organizzazioni politiche improvvisamente anche quelle aggregano molto, molto meno. C'è, e questo arriva dagli anni 70, un desiderio di ritrovarsi a fare politica insieme con altre coordinate, non più strutture verticistiche ma strutture orizzontali. Sai benissimo di cosa parlo quando si parla di autogestione, che nasce già negli anni 80, non è che nasce tutto con i CSOA, tutt'altro. È evidente che la nascita di questi spazi risponde a una esigenza, già a qualcosa che era in cantiere. La pratica dell'autogestione, per esempio, è una di quelle cose che si stava già sperimentando dai primi anni 80, e poi nasce addirittura, vabbè, con il movimento operaio e via dicendo, eccetera eccetera, appunto proprio perché c'è il bisogno e la voglia di trovare delle nuove strade, e saranno anni di sperimentazione, alcune più d'avanguardia, alcune meno, alcune hanno segnato la strada e i percorsi degli spazi, altre un po' meno, però c'è stata questa volontà. E poi mi interessava a me soprattutto anche raccontare quelle che potevano essere le differenze generazionali tra chi è venuto prima e chi è venuto dopo, perché era anche molto curioso, mi ha incuriosito sempre molto il fatto che alcune realtà, e viene raccontato, aggregative, se penso alla scena dei rave illegali, nascono in spazi a Roma ideologicamente molto ben formati. Se pensiamo nell'illegale che nasce soprattutto da un aggregato che si ritrova al Breakout a Prima Valle, un posto legato all'autonomia romana dell'epoca, e via dicendo, mi incuriosisce, quindi ho provato attraverso questi racconti alle persone a chiedere anche quello che era il vissuto tra i compagni più grandi e quelli più giovani, che c'è sempre stato poi da generazione a generazione tra chi veniva prima e chi veniva dopo, rotture che sono sane e che servono anche a far crescere, a evolvere in un modo o nell'altro. Che struttura hai dato al testo? Cronologica si apre appunto con la giornata dell'11 luglio con quello sgombero e si torna indietro agli anni 80, perché la domanda che viene posta era: ma chi era sta gente che nell'estate del 95 in più di 100 persone, quasi 200 persone si barricano dentro un posto, un altre 100 e passa se non 200 si ritrovano fuori a fare i blocchi stradali e via dicendo, cioè chi era sta gente improvvisamente che si palesa con un livello di conflitto così alto, no che a Roma non ci fosse il livello conflittuale già in atto, non è che nasce di nuovo tutto quanto lì, però la domanda così spunta è quella: chi sono? E quindi si torna indietro alla metà degli anni 80 per andare a raccontare chi erano queste generazioni che si ritrovano poi a difendere uno spazio e anche un percorso, una difesa che in quel momento tutti sentivano necessaria, anche appunto alcune realtà che erano fuori dalla delibera 26 o non erano affatto convinte della delibera 26. Il libro Il cerchio e la saetta, storie dai centri sociali romani, un saluto e un ringraziamento all'autore Fabrizio C. Alla prossima! Ciao ciao! Con Giambattista Tofoni, ideatore del festival musicale Incanto Marche, dall'11 luglio al 10 agosto 2025, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito e saluto tutti i radioascoltatori. Una prosecuzione del progetto Risorgi Marche, ce ne parli? Risorgi Marche è nato nel 2017 dopo le scosse del terremoto del 2016 da un'idea di Neri Marco Re, siamo molto amici, abbiamo collaborato insieme per tanti anni, era una risposta della società civile verso una situazione veramente difficile di abbandono chiaramente insomma, appena dopo il terremoto dei territori e di uno spopolamento indotto dal disastro, quindi Neri ha avuto questa idea, abbiamo iniziato questo percorso e ha chiamato tutti i suoi amici e nei primi 3 anni abbiamo fatto insomma questo grande festival che ha portato 350.000 persone sulle montagne e ha riacceso un po' i riflettori su una situazione di territori abbandonati. La ricostruzione è partita molto lentamente e molto ancora c'è da fare per il futuro. Quindi l'idea principale era questa, ricreare una comunità, ricreare quella microeconomia che si era persa subito dopo il terremoto. Diciamo che ci siamo riusciti, ma adesso abbiamo creato un festival solidale, sostenibile, inclusivo e quindi vogliamo andare a un passo successivo. Ci spieghi questa trasformazione anche a partire dal nome? In questi anni, sono 8 ormai, quindi annunciamo quest'anno la 9ª edizione del festival, in questi anni abbiamo incrociato tutta una serie di esperienze importantissime che sono quelle della disabilità, delle piccole aziende locali, eccetera. Quindi volevamo ampliare il discorso di Risorgi Marche non solo alla musica, che era diventato un festival insomma importante. Quindi l'idea è proprio questa, ci siamo anche trasformati da un punto di vista della sostenibilità, nel senso che abbiamo già iniziato proprio nei primi concerti ad avere un approccio sostenibile, ma nel frattempo il festival è veramente cresciuto sotto questo punto di vista, quindi incrociando queste esperienze importanti dell'Anfas dei Sibillini, del micro biscottificio Frolla, della Birracca, cioè tutte imprese sociali resilienti del territorio del terremoto che volevano dare un'immagine e un messaggio di resistenza e di resilienza, quindi l'idea era quella di creare proprio una rete e in effetti abbiamo creato una rete con queste associazioni e alla fine siamo una grande famiglia e altre associazioni diventeranno parte di questa grande famiglia, quindi abbiamo voluto staccare un po' il festival che fa parte sempre di Risorgi Marche e chiamarlo Incanto Marche perché abbiamo visto degli spazi suggestivi e straordinari. Io anche personalmente non conoscevo in mezzo alle montagne, ho conosciuto persone straordinarie dal punto di vista anche della qualità artistica e della qualità umana, quindi è nato questo festival che è la prosecuzione di Risorgi Marche che si chiamerà da adesso in poi Incanto Marche. Quanti sono gli appuntamenti? Abbiamo 15 appuntamenti e abbiamo anche un nuovo format che abbiamo sperimentato con Neri negli anni passati quando dirigevamo insieme un teatro a Porto Sant'Elpidio che si chiamava Teatro delle Api, dove abbiamo invitato questo format che non è niente di originale, però lo potrebbe fare solo un personaggio così poliedrico e bravo come Neri, cioè invitare cantautori, autori, poeti musicali che si mettono a nudo, si mettono in gioco e quindi c'è una sorta di concerto incontro dove si parla, si discute, si suonano e si cantano i pezzi che hanno creato la carriera di questi grandi artisti in un'atmosfera veramente unica, tranquilla, poetica, in mezzo alla natura, in mezzo alle montagne. Quindi saranno incontri concerti e inizieremo con i primi tre, che saranno Luca Barbarossa l'11 luglio, il 12 avremo Niccolò Fabi e il 13 avremo Tosca. Poi proseguirà con tutta una serie di concerti, chiamiamoli classici, di Risorgi Marche, all'interno di quella modalità che è quella classica, cioè la camminata, il percorso e l'esperienza. L'esperienza che significa prendersi una giornata, infatti quasi tutti i concerti sono nel fine settimana, prendersi una giornata, farsi una passeggiata, arrivare in montagna, sedersi su un prato e ascoltare della musica con impianti ad altissima fedeltà. Com'è stata la scelta artistica? A parte questo inizio con Neri, che ha scelto lui, Luca Barbarossa, Niccolò Fabi e Tosca, poi abbiamo Gio Barbieri, Simone Zanchini, Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo, abbiamo un quartetto all'alba dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, la Babel Nova Orchestra, che è l'ex orchestra di tutti i componenti dell'orchestra di Piazza Vittorio, che conosciamo da tanti anni perché li abbiamo fatti più o meno in tutte le sasse nel nostro territorio, dei progetti speciali sperimentali con Matteo Paggi e Matteo Stella, poi abbiamo un bellissimo progetto con la banda Osì, Marco Pastonesi, giornalista straordinario, Massimo Cirri di Caterpillar e Alessandro D'Alessandro, dedicato al ciclismo. Finalmente riusciamo a fare Nala, che l'abbiamo inseguita per tanti anni, e poi concludiamo con Valeria Sturba, una musicista che noi amiamo molto, sperimentatrice. Quindi è veramente misto dalla musica popolare contemporanea di qualità, come viene definita, all'improvvisazione, al cantautorato, alla sperimentazione, alla world music e alla musica classica. Insomma, tocchiamo un po' tutto, anche perché siamo trasversali dal punto di vista dei generi, ci piace la buona musica, le buone proposte, non ci fossilizziamo su un discorso semplicemente di genere e quindi cerchiamo di aprirci a 360 gradi con le cose belle. I luoghi? Sono i luoghi del terremoto, cioè all'interno del cratere del sisma, ma anche dell'alluvione del 2022, infatti toccheremo anche la provincia di Ancona, e sono luoghi che cerchiamo, alcuni sono delle riproposizioni rispetto al passato, sono lo scenario naturale di questi concerti, sono i Monti Sibillini, l'Appennino, e guardare questa scenografia naturale bellissima, quindi non mettiamo niente, non mettiamo palchi, c'è semplicemente una cordicella che separa l'artista dal pubblico e dietro all'artista c'è l'infinito leopardiano, c'è proprio la montagna, il mare, le colline, insomma è un modo di vivere, insomma, il concerto in maniera diversa rispetto a quello che è un teatro, una piazza oppure uno stadio, completamente diverso. Quindi gli scenari sono quelli degli Appennini marchigiani. I riferimenti internet per saperne di più? Abbiamo appena inaugurato il nuovo sito che è incantomarche.it, replicato chiaramente all'interno di risorgimarche.it, i social sono sempre quelli, sono quelli di risorgimarche.it, ci sarà un modico prezzo di biglietto semplicemente per controllare gli accessi, che è 5 euro, bisogna un po' sbrigarsi a prenotare perché stiamo terminando i biglietti disponibili, abbiamo un limite per alcuni concerti di 2000 persone, per altri di 500, ma la media è 2000 persone al concerto. Più di questi non vogliamo fare i grandi numeri del passato, perché sono più complessi e anche molto più impattanti dal punto di vista della sostenibilità, quindi ci siamo dati un limite e questo limite vogliamo rispettarlo anche per ricreare quell'aspetto di comunità tra il pubblico e gli artisti, insomma. Quindi incantomarche.it o risorgimarche.it e i social di risorgimarche.it su Facebook e Instagram. Nona edizione del festival musicale Incanto Marche, già Risorgi Marche, dall'11 luglio al 10 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Giambattista Tofoni. Alla prossima! Alla prossima, grazie mille per l'ospitalità. Saluti a tutti. Ciao, grazie. È il momento dell'agenda con Simone Nebbia di Teatro e Critica per gli appuntamenti della settimana. E buon pomeriggio a tutte e tutti per scoprire cosa c'è in questa settimana teatrale a Roma e dintorni, ma insomma andiamo a concentrarci sul nostro Teatro Tor Bella Monaca, perché c'è il Tor Bella Monaca Teatro Festival che è già cominciato questa settimana, si avvia proprio questa sera con due appuntamenti oggi e domani con Sissi l'Imperatrice, uno spettacolo scritto e diretto da Roberto Cavosi, una voce della drammaturgia contemporanea, insomma, che da un po' non si faceva vedere, con Federico Luna Vincenti. Si tratta chiaramente dell'Imperatrice Sissi, Elisabetta d'Austria, che appunto conosciamo comunemente con questo nome, sono vari quadri per delineare il carattere, il pensiero dell'imperatrice, insomma, su vari argomenti per farne un ritratto generale. Giovedì 10 luglio, invece, un spettacolo dedicato all'intelligenza artificiale con Mammut, Vita e morte di un'intelligenza artificiale, lo spettacolo di Rodolfo Ciulla, ambientato in un futuro non molto lontano, dove insomma la colonizzazione di Marte è diventata una speculazione edilizia. E ancora il 10 luglio, per nell'altra sala, Ritornerai bambina, uno spettacolo di Antonio Coccia, che è vincitore del bando Spacciamo Culture, racconta di Melina, giovane donna trans, e poco lontano Carmine, giovane uomo, che si conoscono e chiaramente iniziano a raccontare un po' di sé e vedere che cosa c'è di sé nell'altro, e questo è molto interessante. Mentre invece venerdì c'è Sabina Guzzanti l'11 luglio con Liberi di Liberità, che si dedica insomma al dialogo con la politica attuale, e nell'altra sala, nella piccola, Cristiano Ciliberti presenta Nel Mezzo, questo spettacolo scritto da lui diretto, che è una serie diciamo antologica di corti teatrali. Antonio Catania il 12 luglio con Azzurro, tratto dal libro omonimo di Curzio Maltese, lo spettacolo di Paola Ponti con la regia di Carmen Giardina. Antonio Catania insomma lo conosciamo, racconta il grande giornalista scomparso. Domenica 13 invece La Voce, a tutti gli effetti La Voce, di Luca Ward, Il Talento di Essere Tutti e Nessuno, spettacolo appunto con il grande doppiatore Luca Ward, che insomma si presenta anche sul palco del teatro. È la settimana questa anche della rivoluzione alla sudamericana, al Teatro Libero di Rebibbia, l'11 luglio alle 16 alla Casa Circondariale di Rebibbia, nuovo complesso, ma in scena questo spettacolo diretto da Laura Andreini con i detenuti attori del Teatro Libero di Rebibbia, ispirato all'opera di Augusto Boal. Questo è l'appuntamento, ma invito ad andare a vedere in rete qualche informazione in più su come accreditarsi, perché ecco, certo non è la cosa più semplice di tutte. E invito anche a dare un'occhiata alla quinta edizione di Sempre Più Fuori, con la direzione artistica di Antonino Perillo e Giorgio Andriani, in vari luoghi. Da ieri al Cimitero Monumentale del Verano questa performance site specific di Rimini Protocol, pensata appunto per il Cimitero Monumentale del Verano, di Stefan Caeghi, appunto Rimini Protocol con Remote Roma, e poi Baci Rubati, che apre una finestra parigina in collaborazione con la Nouvelle Vague sul Tevere. Insomma, ci saranno poi vari appuntamenti anche andando avanti nei prossimi giorni. Il festival è appena cominciato. Baci Rubati sarà invece non al Cimitero Monumentale del Verano, ma all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. Leonardo Manzan presenta uno spettacolo di Leonardo Manzan alle ore 20, sempre di questa sera, mentre invece ci sarà anche l'installazione sonora di Bartolini Baroni oggi, Chiara Bersani con Prima di Ogni Cosa, sempre un'installazione sonora. Poi domani andremo a vedere Tucci U2 alla fine del mondo, proprio di Bartolini Baronio, Isabella Aragonese, domani sempre con Nürgenland, Nessun Luogo, in omaggio a Masha Kaleko. Insomma, vari appuntamenti questa settimana. Giovedì Avere una brutta natura di Gioia Salvatori, una cosa bellissima che vedo adesso. Sabato 12 luglio a vedere un incontro con Jenny Erpenbeck, scrittrice, autrice di Kairos, che ha vinto l'anno scorso il Booker Prize, International Booker Prize 2024, libro bellissimo che invito a tutti quanti a leggere. Quindi sabato 12 luglio sarebbe veramente bello esserci e partecipare, e io do appuntamento fino a lunedì, perché appunto è l'occasione per vedere L'amore del cuore della compagnia La Casa d'Argilla, l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, per la regia appunto di Lisa Ferlazzo Natoli, spettacolo che abbiamo già visto nelle scorse stagioni. Alle 22:30 in anteprima nazionale DJ Show 20 Something Edition, un DJ set a cura del Sotterraneo, che celebra i 20 anni di attività. Questo andremo a vedere per Sempre Più Fuori, la rassegna estiva di Pirillo Andriani. Poi Officina Pasolini per il Giardino Pasolini, con la direzione sempre di Tosca, al Teatro Edoardo De Filippo, appunto alla Farnesina, con un po' di appuntamenti, lezioni concerto, concerti, teatro e stand-up comedy, insomma un po' di cose miste. Invito appunto ad andare sul sito di Officina Pasolini per vedere un po' più da vicino di che cosa si tratta. E poi questa settimana inizia India Città Aperta, e appunto il Teatro India che si apre fino al 3 agosto con vari appuntamenti. Si comincia oggi, questa sera, Nicola Fettarappe e Lorenzo Minozzi con il concertino per gli sconfitti dalla vita. Poi c'è il format Bei Ricordi Show, domani anche uno spettacolo per ragazzi, India Kids, e che segue Little Pierre di Pier Cortese, appunto dedicato ai bambini, alle ore 19. Poi giovedì 10 Mobius di Giuliano Logos, sempre per quanto riguarda il teatro, e venerdì 11 Lorenzo Maragoni ancora con il Colo Fettarappa, Solo quando lavoro sono felice. Sabato 12 Brutta storia di un corpo come tanti di Cristiana Vaccaro, in scena con la regia di Francesco Zec, il testo di Giulia Blasi, spettacolo che avevamo visto di recente al Spazio Diamante. Si chiude con questa settimana, domenica, con il teatro danza Isabel, tratto da una storia vera. Alessandro Smemetai e Ioris Petrillo presentano questa coreografia e spettacolo insieme. E poi chiuderà la serata Amorucci di Giuliana Nia con A Cruda Voce, con insomma vari strumentisti e voci della scena romana e non solo. Poi continuerà poi la settimana successiva, torneremo a capirci qualcosa. E per questa settimana invece noi ci fermiamo qui, è tutto quello che c'è a Roma, e buon teatro a tutte e tutti. Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.